10. Ascolta e controlla. 1. Dove state andando ora? Stiamo andando al concerto. 2. Che cosa stanno facendo ora? Ora stanno facendo un lavoro in giardino. 3. Che cosa stai bevendo? Sto bevendo un aperitivo. 4. Che cosa sta traducendo? Sta traducendo una email in cinese. 5. Ora stai dicendo una bugia? No, sto dicendo la verità. 6. Che cosa sta riponendo? Sta riponendo i vestiti invernali.